come un UFO. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, prova. Hola, prova, 1, 2, 3, 4, 5. Hola. Chi è? Rombe. Beh, non c'è nessuno, l'ho acceso adesso, non c'è un'anima, non si tenne nessuno. Se c'è la sorella fino a pochi minuti fa, è la torella che ti stava chiamando. Oh, l'ho acceso adesso io, non l'ho sentito. A torella ci sei? No, oh, si deve essere spostato su canale 20. Boh, non ha inteso a nessuno, l'ho acceso 5 minuti fa. E Luca è inteso. E Luca non si è merendato con la pasta al forno. Poverino, se avrà mangiato la spara di raccolta rimane. Anche. Dopo la pasta al forno si mangia anche quello. E oggi doveva andare, o a rimane. No, ieri, oggi. Boh, non me la metto, oggi forse. Boh. Non l'ho sentito per niente. Ehi, pasta e ceci e carciofi. Pasta e ceci e carciofi, Già è tutto buono, già è tutto buono. Ehi, me ne ho fatto una bella magnata di pasta e ceci e patate. Con i finocchietti, la ziota e l'uso da riva. Buona. Va bene, minestrone oggi minestrone, stanotte, sembra che ci sono effetti dei sugli, facciamo sugli e insalata stanotte, No, faccio ancora di salmette e fagiolo e anche carciofi, perché li ho fatti anche fritti. E sto buono, mi sbiato, cucuto ancora. E sono usciti voi, tennari. Io unia di carne, Oggi adesso posso uscire. Ah, non sei uscito oggi? No, oggi no. Oh, è cannaggiata. Niente, nada di nada. E poi dovevo aiutare la paletta qua, pulita. Ma sono sceso in campagna un paio d'ore, mi sono fatto cinque innesi mi sono fatto e me ne sono alzato. No, io sono sceso, noi siamo dita, l'anche da abbassata l'ho recuperato in campagna, ma io non posso più nulla, non mi salito, cane voce in invozia, non mi interessa proprio. E a lui lo saranno, e a chi ha fatto Rumini a passarrangia io ero annoiato e me ne sono sceso un poco e cosa vuoi fare, è stata un po' di chimi, allora sono guardato un paio d'ore, ma faccio quello che dovevo fare, me ne sono salito. Io sono recuperato domenica, sono recuperato verso le 10:30, 10:15 ho fatto il fuoco, ha già riuscito a risica caffè, cosa me ne sono andato. No, già se lo vado nei giovani, non mi interessa brutto. No, ha già fatto troppo, avanti, calivo se ne vado. Vabbè, io la mia voce me la fate nessuno a me, così che devo fare. Ah, che sì, tu a chi sei la giura, ma la media bisogna mi nipoti, invece barassola mania, si muggiani, tu fai solo, ma mangia e basta, qui sia. Allora, finiti qua sono quei tempi, cazzo. Se ti vedi ma che mangiai sia, sempre vendi, no? Allora, si riposta le lastre. Ehi, se lo so offendi, io già vi da guarda, non mi stavi saputo. Oh? Paoletta, la mia buona fa che cosa? Allora, la mia 63, 2 anni la bongo a tagliare il bene a fa, ma punendi. Sì, ci può sapere che il giardino così, ma no, andava a tagliare il befano, oh? A che penso bene, fatemi tutto, Gli ha preso i miei nipoti, se la taglialetti, tagliate la sua taglietti. Non è che a che femmina non posso, non lo posso fanno. A femmina, che fanno, ma che si cose fa di uomo? Vabbè, c'è quella magari adatta a farlo, c'è quella che magari no, non è capace, però una si deve dare a fare, no? Sì, sempre si li può fare. Viene una vicina a campagna a noi, a Ucci, tanto è molto un marito, adesso no, a chiamava un altro uomo, ma è morto il marito. E si buoniava tutta il marito e si tagliava tutta l'elma della campagna, un uomo umano Maria. Poi adesso ha conosciuto un altro uomo ed è con questo uomo e già l'ha fatto. A chi si appagava, per fare la cosa, oh ya. È logico, no? Oh, ancora già, mi pare fa già. Sulle 56 anni non è stato così, il marito è morto di malattia e la giovane Matteo è stato un paio d'anni così e aveva sepolto un uomo, Vaggiano, e convivo, non va? Ehi, ehi, la sento grazie, 10 minuti, dai. E adesso chi non si chiama? Trommi! Attento Graziano. Dimmi. Come mi ascolti Graziano? Cosa? Non sei uscito Bacchi? Non ti sento. Come? Perché non mi senti? Prova. Come ce l'hai? 1, 2, 3, prova. Graziano. Amici. Sì, e ti senti. Ah? Sì, e ti sento. Avanti, avanti. Buonasera. Ciao Mario, è bene. E tu come mi senti? Bene da qua. E quelle due zavorre che ti ho spedito. Sempre con me ce l'hai, mi vuoi così bene. Ma chi c'è? Bacchisio c'è? Non sai che io ti penso sempre. Buon gustaio, sì. Bacchisio? Sì, Marino, buonasera, mi ascolti? Certo che ti ascolto, modulazione bella e pulita. E tu come mi ascolti? Fondo scala. Più di così non va questo strumento. Fondo scala, pulito. Allora, stasera abbiamo piazzato il ponteggio che ti stavo dicendo. Mi ho sceso la manto da 5, mi è sceso in terra, era in terra. Mi è rimasto quel cerchio tondo in 4 pezzi. Mi sei tutto fatto a pezzi. Non ho sceso con l'altra tua e mi ho messo la mia, quella è la X30. E non ho messa alta, comunque già va bene, dai. Pulita sto scendo, sì. Ma sembra che sei qui a casa, dirò che più bene di così non si può. Graziano, cosa dici tu? Sì, ti sento benissimo, hai controllato la sensazione. Guarda, va benissimo, io non controllo neanche, per se controllo mi tocca tagliare tutto, già va bene così. E così io ti ascolto benissimo Bacchi adesso, un po' bassino ma ti ascolto benissimo, pulita. Ripeto, ci sono più di 30 metri di cavo, ci sono lì, e ci sono 3 bari rotti. Comunque va bene, la modulazione è bella pulita, Bacchi, già va bene, dai. Allora, se metto il portatile arrivo più forte, aspetta, riprendi Grazia che cambio il portatile. Mari, comunque non è per tutti quella centralina che ti ho mandato, hai visto, eh? lo so, grazie a che tu mi pensi, lo so. Ma già ti penso anch'io ogni tanto, dai. Ogni tanto già compensi, dai. Oh, yeah. Cosa gli apri di detta a quella? Non lo sai cosa bisogna dirmi, lo sai, dai. Lo sai che sono un ragazzo timido, sono un ragazzo quasi per bene, non posso dirlo con frequenza. Infatti, io che faccio più. Anch'io, allora siamo in due. Poi io sono un ragazzo timido, vergognoso, lo sai. Per la mano mi deve prendere, se lo temo. Ora obiettivo, poverino. Oh Iulia, abbasso con 60 Napoli 27, bisogna che me la piazzi. Mi ho sceso, ho amato la cipria, mi ho sceso e mi è rimasta in mano, mi è rimasta. Oh Iulia, va bene, adesso si rimane in piazza Lata, in piazza Lata, la 27. Tutta la sera smontando, riprovo che mi trovo a piazzare il ponteggio, legarlo, un casotto qua, un casotto. Per c***o di fare, come ho fatto io, sono rimasto una settimana senza me, almeno l'ho messa su due cavalli, l'ho smontata tutta, non andava, le ho fatte tante, praticamente c'era parola. Allora, ho fatto tutta la carta vetrata, l'ho anche bella lucidata, poi l'ho lavata con il diluente, a pezzo li metteva una parte. Al mollone lo stesso, piano piano l'ho pulito perché quella è la parte più delicata. Gli ho spruzzato quel prodotto per la corrosione, dove c'era la bifenotone, tutta quella parte lì, ed è uscito lucido lucido. Poi ho penato. Sebastiano ce l'è scappato fuori. Ecco Coca-Cola, ci ho messo il mollone a muccio e ci nuovo, nuovo, nuovo, quando non l'ho levato dopo tre giorni. Ricordi quante corrosione c'era, teoria. No, quella lì mi sei tutta spezzata, e grazie. Il cerchio che c'era sopra mi sei proprio, mi sei tutta ossidata, tutta mangiata. Mi era tutta magnata, in tre parti mi si è fatta. Comunque tutto il tubo è nuovo, piano piano, lo smonto, pulisco bene, lo metto a parte, già ne ho un'altra. Vediamo se Bacchì si è entrato, avanti Bacchì. Ehi, ehi, sono qua, bene mi ascolti adesso Marì. Sì, sì, benissimo, sì, ma anche poc'anzi Bacchì, eri leggermente un po' bassino in radio, ma la modulazione è bella, bella pulita, capito, avanti. Questo è quel giocattolino piccolino che sto usando. Capito, ho giocato lo piccolino, no, non ci arrivi bene anche qua. E io sto usando quello là, quello piccolino lo stesso, Vabbè, io sono solo piccolino, comunque va bene, dai. Andrà bene, va troppo bene. Avanti, fai girare. Ehi, ehi, di lusso, Di lusso, Graziano, avanti. Ehi, poi quando l'ho ripiazzata gli ho messo un po' di vasellina, gli ho rincassata. Gli ho messo le faccette nuove, tutta la vasellina bella sparsa anche nella molla, dove c'è quella vite d'ottone, tutto bello ingrassato con vasellina. Gli ho messo poi il nastro vulcanizzante avvolto a quella vite in ottone, perché quella è della carica. E niente, e l'ho rimessa su, e non c'avevo manco uno di stazionari, era perfetta, è perfetta, solo che poi ho spostato il filo e ho dovuto mettere un bucciolotto con una prolunga e adesso mi dà un po' di stazionari. Sì, vabbè, piano piano, un domani, con calma, tu lo cambi, piano piano. No, la mia col vento mi ha fatto un casotto, poi l'avevo legata anche, era molto alta, grazie. Poi l'avevo legato, avevo fatto dei tiranti, poi l'ho legata anche due antenne della televisione, l'avevo legata, ma legata così, tanto per non ballare troppo. E mi stavano a fare problemi, c'ho la parabola di mia figlia e stava mandando un casotto alla parabola, capito? Cioè internet, tutto fuori frequenza stava andando. E per quello la dovevo togliere. La stavo smontando e mi è rimasta in mano stasera, vabbè, tanto tu la devo togliere, adesso con calma la faccio a pezzi, la smonto. Quei tubi già possono servire, già ne ho un'altra pronta a piazzare, con calma me la piazzo. Avanti, va chi? Io. Ma se la manzo va smontata, ne hai? Mi sei smontato, mi sei proprio fasciato, Bacchì. Mi sei fasciato, si sa fa come si chiama. Qua fare il cerchio, mi è rimasto in mano. In due pezzi mi è rimasto, cioè il cerchietto, quello in alluminio, là, diciamo. Perché, ma non per conto, quella è la collisione, il coso che arriva da fuori dal mare, mi. Non so se ne, come discone. Il disco ne servo io, è sceso a pezzi, tutto mangiato, l'alluminio è sciolto. Io pure per stare, già c'è Antonello, l'ho fatto lucido, eh. Ho preso un acciaio, l'ho preso con la grossa, poi l'ho lucidato dalla punta alla fine, a fare tondo da lucido, nuova, tipo quella che ti ho fatto vedere che ce l'ho pronta a piazzare, nuova. Io non sono da fatto, proprio la stavo scendendo e mi è rimasta in mano, proprio è per quello che mi dava problemi anche apparecchio. Ti ricordo che ti ho detto che mi stavano problemi e sicuramente che erano carico stazionari, sicuramente, ma com'è che non ho fatto nulla. E vabbè, l'ho fatto, togliendo quelle, ho messo il paletto, ho messo quella che ti ho detto io l'altro giorno, però logicamente quando stavo piazzando mi ha un radiare. Adesso ho il centrale con due radiali, adesso con calma, già ho lasciato il ponteggio, la scendo leggermente e mi fisso il radiale, perché c'ha tre radiali questa qua, no? Adesso ne ha due, e comunque già va bene, dai, avanti, grazie. Adesso quando ti piazzi l'altra, prima di piazzarla, ti compri il silicone a spray e gli spruzzi tutto il silicone a spray, così gli fa una pellicola, capito? E te la riserva per un bel po' di anni, capito? Col silicone a spray. E già ce l'ho, allora cosa ho fatto? Ma io sono quasi vicino al mare, come quello di Bacchisio stesso, la riscona l'ha fatta a pezzi, capito? Oh, grazie. Io l'avevo tutta bella pulita, era nuova, lucida, era lucida, lucida, poi l'ho fatto lo spray, so che il cerchio, il cerchio che c'era me l'ha proprio mangiato, consumato, in tre pezzi me l'ha fatto, figurati. Il tubo non ho fatto nulla, il tubo è così, tutto l'interno, ma il coaffare alluminio me l'ha proprio mangiato. E va bene, dai. Quanti anni ci aveva quell'antenna, va chi? 15 anni o di più? Di più di 15 anni, di più, almeno una ventina d'anni ha quell'antenna, come quella che ho io, lo stesso tanto. Quella era in campagna e questa era qua in città, quella che era tele è quella che c'era in campagna. Figura, che già un paio d'anni ce l'ho io, già ha fatto la sua vita, già se l'ha fatta, dai. Ah, che nel cerchio, insomma lì, alla Bricomen vendono l'alluminio, bisogna vedere se c'è quello da 6, mi sembra sia l'alluminio da 6, se c'è l'alluminio, pieno, alluminio pieno, non vuoto, pieno, tondino, si può ricostruire il cerchio. Adesso io adesso con calma, la voglio tutta smontare, la voglio, adesso vediamo, e poi vediamo se riusciamo a costruire il cerchio, e la ripiazziamo, o piazzo quello o piazzo l'altra, magari mentre organizziamo quella, mi piazzo l'altra, mi piazzo, ormai ho già messo già un paletto di là dove ti ho detto, adesso vediamo la settimana, ma meglio uguale, dai, avanti, signor Graziano. Ehi, lo potresti anche ricostruire. Se no, le conservi, quelli spezzoni, possono sempre servire a fare anche altre antenne, li puoi sempre utilizzare. E tirabili nuova, adesso magari le trovi anche più a prezzi più buoni, quel tipo di antenne così, bisogna vedere se ce ne sono ancora, di quelle antenne. No, già ce l'ho, sì, grazie, ce l'ho l'antenna per la 27, ce l'ho, mi Bacchisio l'ha vista, non ricordo il nome. Come si chiama Bacchisio quell'antenna, te la ricordi? No, non me la ricordo, Marino, non me la ricordo proprio come si chiama. E non mi ricordo neanche com'era, illuminami un po'. Aveva l'attacco all'esterno con delle cravatte, no? E c'è una carica trasparente dove si vede la carica di rame, capito? Non ricordo, non mi viene. cosa sia. Boh, non lo saccio. Ma quello che tu non c'avevi la cosa, Marì, l'antenna della B-banda, 11 metri e 27. La B-banda? Quale, da che? Quella da 11 alla 11.45? Oh, quella del coso, del 100 metri, coso. Faceva anche... Bah, oh, 10 più. 11 metri e 27. Aspetta, ma che giro del coso, gira la frequenza, che sta ascoltando le altre persone adesso. Aspetta, un attimo solo, ma che? Oh, signor Battisio! Oh, buonasera, signor Dottore, come ce la va? Sì, buonasera. Sono rientrato adesso, sono rientrato. E davvero, buon anno, Otto. Sì, buonasera, Marino. Ciao, Graziano. Ma tu hai visto sulla 131, tu hai detto? Sulla 131, oggi, io? No. Non posso. Perché mi ha detto, suonato uno, mi ha risposto, dove, forse è Tore, forse era la compagnia dei cani, che pensavo si è portato il cane di là. Oh, il sabato mattina c'è uscire a Olbia, quindi non so se vado sabato mattina, come tornando da Olbia, andare a Cossoine. Non lo so, dipende da mia figlia. Allora, boh, chissà, non so, ho suonato, mi ha risposto, mi ha fatto le mani, mi ha fatto, boh, e va bene, dai. Ascolta, come ascolti, Tore? Non sei Sidu. Bene, ma ascolti. Sì che ti ascolto bene io. Benissimo. Avanti, chi vuole entrare? Ciao, Tore, ben sentito, sempre in giro, sei. E cosa vuoi fare? Andando tu rendi esempi. Andare. Ce la riprenda, signor Bacchi. Ehi, capito, grazie, andando tu rendi. E che commentire la canzone di Rossetta? Attende farendi, baricari. Che rendereva, ecco. Vabbè. Ti stavo dicendo, Marì, l'antenna, quella 11 metri 27, da B-banda, che c'aveva i radiali caricati, tu ce l'avevi quella lì? No, ma quella ce l'avevo quando ero al monte, no, quella lì era tutta, l'ho distrutta quella di Bacchì, ho capito, faceva da 27 ai 45, faceva così, Sì, infatti hai detto, se ce l'hai, togliivi l'anello da lì. Magari avete quella lì, no, non ce l'ho più quella lì, no, e dal monte l'avevo tolta, poi mi si è rotta, l'avevo messa in soffitta, una cosa all'altra, poi boh, il mio vicino, la porta a fianco, il filo, e un giorno si è salito e non c'è più l'antenna, io l'ho chiesto, ma io non mi permetto di toccare nulla, e invece è sparita l'antenna, l'ha fatta indignare, l'ha fatta, lo vedo. Quella ce l'avevo a casa piazzata, poi l'avevo smontata, prima di scendere in campagna e poi mi è sparita dalla soffitta, capito? Ecco, non ce l'hai più. Vediamo, Tor non ne ha di quella roba lì. Tor, noi sei in soffitta da te, c'è qualche antenna vecchia, no? Saggio compreso. Ti ha detto se c'hai qualche antenna vecchia, Bacchisio. No, ma chi mi piace quella là, mi piace, ho capito? Quella che ti ho detto io l'altra volta, che ti ho fatto vedere. Ti ricordi? Sì, va bene che quella. Più piccolo sei. Come il bacchino? Non lo so, c'è una bella carica, C'è una bella carica, è una carica trasparente, tutto il rame. E come lunghezza, se non mi sbaglio, è la lunghezza tipo la mantova, come altezza. Cioè, dammi una cosa. Non mi hai fatto vedere con il... Cos'è? Galassi, che lo avevi in macchina. E chi? Che mi sto, cos'è? Ma per che cosa ti serve? Un milione di euro. Oggi come preso una cosa di Zepi, di Santenna. Un milione di euro mi serve. A chi se faccio? Se deve andare in banca se ti ridazzine. Finata, gliel'ha consumata la salsedine, la carica, il cerchio, mi sei tutto impacciato. Ma stavo scendendo a tu, mi sei fatto i mille pezzi d'antenna, capito? Il cerchio, la serpentina mi si è tagliata, dunque l'ho scesa e così via. E magari ce l'ho per la 27, voi sono piazzata, adesso questi giorni c'ho un po' di tempo, prendo, le do una bella pulita e la piazzo direttamente. Avanti. Ma per la 27 ti serve. Ma dimmi una cosa, ma quella dell'antenna della 27, la Mantova 1, il pezzo di sotto non ce l'hai? La Mantova 1, qua c'è, ma quella che ha piazzato? La carica ce l'hai? Hai qua c'è, quella che ho sceso stasera. Non so, se c'è la carica della Mantova 1, basta un pezzo mi, e poi si può rifare. C'è tutto io di quella roba che stasera ho sceso, capito? Mi si è rotta solo la serpentina e il bacchino, se c'è un gira, vado da bricco e prendiamo l'alluminio e lo rifacciamo. E boh, quella, se c'è la carica si può rifare tutto il tubo intero, andando piano piano a farla salire sino a 7 metri. Ma il tubo c'ho solo quanto? Grazie a otto. Tutto il tubo ce l'ho intero, c'era, non c'è nulla, mi si è rotta solo la serpentina, diciamo, là, il cerchio in alluminio, se basta. Solo quello, boh. E quello già si può rifare, quello lì. Basta prendere un tubo da un metro e fargli fare il cerchio, piano piano. E appunto, non è quello, ma poi per vedere se caso con calma c'è ragione in piazza l'altra, in piazza, quella che c'ho. Ne ho uno, non mi ricordo il nome, c'ha una bella carica, trasparente, c'ha, e di rame, capito? E la lunghezza più o meno è 6 metri e mezzo, 7 metri. Ma sai che quel cerchio che la serve sulla Mantova, Marì, per accordare l'antenna, quella è una accordatura d'antenna. E quello lì mi si è rotto, bacchia e basta, Quello si può rifare. Trovare una bacchetta di alluminio alla Brickman. Penso che la vendano anche da 2 metri, perché un metro non ci basta, con un metro non fai nulla, comprandola più lunga si può anche rifare. Perché io spezzoni dovrei averne in alluminio, sono spezzoni da un metro e mezzo forse, li devo controllare, un po' di spezzoni c'era, ma adesso vediamo con calma, adesso fammi riposare questi giorni che non mi sento bene, tutto qui. Avanti, sono Graziano. Ehi, la copri la Brickman, a un capo, dai chicci con la massetta, col trapano gli fa il buco per la vite, anche dall'altra parte. Poi prendi un tubo di quel diametro lì, uno spezzone di tubo, la mantene e la intorno al tubo e ti fai la serpentina, capito? Ho capretto, signor Graziano. Ho capretto abbastanza bene. Avanti, signor Tore. Se vuoi col cannellino lo riscaldi leggero e lo aiuti a fare il cerchio, capito? Capretto. Adesso vediamo con calma, ma Graziano. Con calma vediamo, facciamo tutto. Adesso mi riposo questi giorni che non ne ho voglia. Che sto da coriandolo, troppi coriandoli in giro, grazie, troppi coriandoli, ma sto anche sognando i coriandoli questi giorni, avanti to. Lo gioco, Piazza d'Italia, sino a Massi Giveni, la Ciappi. Ma adesso dobbiamo fare la differenziata col coriandolo, bisogna dividere colore con colore, capito to? dai, sto mangiando già da Marco Schirro con due operai qua giù a Santa Maria di Pisa, ma giù su dove ci sono le scuole, tanto con i cassoni tutti bruciati. Toro, già hai già bruciato il bocco il cassone, bobo? Sono chi si fuscia. E ancora non hai compreso, di brucia intanto paghiamo noi tanto. Sempre noi paghiamo, non hanno capito nulla, avanti, siamo Marchisio. Lo fare, lo brucia nei cassonetti, dove va. Anche quello è un gusto, quindi un gusto di 100 anni, capio. Tore, avanti, riprendila tu. Ah, no, aspetta, ma rimanda la foto a Graziano di quell'antenna che hai trovato, a ver se gli piace. Adesso le faccio la foto. Se le avessi gli piace. Avanti to. Mandamela su WhatsApp. Sì, mandagliela su WhatsApp, mandagliela. Andiamo per andiamo, catta signor Bacchi. Ma chi, se poi da Marino fatti mandare quelle due gemelle che gli ho mandato a vedere se ci vanno bene. Bacchi. Sì, grazie. In papiro non andate bene, di persona me le fa portare. E già si muovono, già ti dimmi da Marino che te li manda. Mia puglia, lascialo fare adesso, sto facendo le porte all'antenna. Così mi dai la conferma se sono uguali. Sì, l'hai fatta? Torre. Sì, che torre? Andiamo, beh, andiamo. Oh, Giulia. A Marino l'ha mandato due gemelle. Sì, gemelle, la camicia le buone. Capito, dottor? Due gemelle gli ha mandato. Ciao, se che fa con i gemelli? Ah, grazie. Le gemelle le hai mandato? Ehi, adesso lo capite dell'antenna. Ma la mente mi ha mandato la coappa, mi ha mandato. E sento qualcuno che è arrivato a casa adesso, suonando un campanello, so. Zona, zona. Sempre allora le zone vengono a fare visita questi qua, boh. Marino, tipo la base magnetica. E allora, quello di acciaio inox. Bacchisio fa quelle altre, non fa che tutto, signor Bacchisio. Bella, bella, prende bene, così. Allora io adesso sono giù a casa, sotto al chiuso, e ce l'ho appoggiata sopra un coso per fare ginnastica. Adesso te la faccio sentire, aspetta un attimino. Pensa che sono al chiuso però, eh. Ehi, fammela sentire. Non andava bene, ma è perfetta, va bene. E adesso la senti come funziona. È un giocattolo, eh. E ma che c'era, un'antenna di macchina? Era uno stilo di macchina. Quello stilo era il tuo una volta. Poi tu l'hai dato a Luca, Luca l'ha dato a me. E infatti, già, quello verde, e ci avvidi. Ne ho dato parecchi, ne ho dato. Tutta Luca l'ha già. Perché tanto in macchina non ne avevo più, poi qua, no, in questa macchina non ne metto. E l'aveva di tutti a Eto. Pure anche quella mi aveva venduto Luca Flipper, autocostruita, la Flipper. L'avevo data a Luca. No, solo due ne ha portato in garage. Una in acciaio, due in acciaio che non si può smontare, non smonta. Questa era tutta disintegrata, era tutta gribbata. Gli ho rifatto la carica nuova, l'ho rinforzata la carrozzeria e via dicendo. Adesso Marino te la fa sentire. Marino, avanti. Marino, aspetta che forse non ti sentono. Allora sentite, guarda che basso è. No, io non lo sento io. Dai Marino, avano ciama. Quando esci? La caglia ci tesia pure, ci fa abitato con lei, come Sant'Enna. Marino. E dove sentono? Sì, basso ieri. Proprio terra. La gente su io solo, di notte ascoltavano. E ascolto, sto chiudendo, che era la gente, dai. Grazie, se mi stai ascoltando, ci sentiamo più tardi, poi domani, dai. Ciao Racchia, domani sei in casa, dai. Ok, ciao. Ciao Maria, domani, vai tu. Sì, ok. Ci sentiamo Maria, magari domani si è tutto andato bene. Ok, riprendi Bacchi. Ehi, ciao Marino, salutissimi, a domani. Capito? Procurami un'antenna che te la faccio così piccolina, grazie. Non lo so se ne ho qualche un'altra in garage. Quando scendo in garage guardo, se ne ho qualche una già te lo faccio sapere. Non lo so, può darsi pure che ce l'abbia qualcuno ancora. Mi ricordo, ne ha già una mazzurata, ho già dato anche quelle lunghe, con lo stile in acciaio. E ne aveva anche una frusta nera, gli avevo dato. Non lo so, devo controllare se me ne è rimasta qualcuna. Non mi interessa il coso, dove la carica, il pezzo della carica interessa. La basetta che attacca la carrozzeria. Poi l'altra già si costruisce. Ah, la basetta, bisogna vedere se ne ho, devo controllare. è strano che qualche mazzetta ce l'ho, mi devo ammaiare. A chi mi dà giù, chi c'è a Roma, mi dà via un po' di pappagliata, compreso. Niente di strano che ce l'abbia qualche mazzetta. Ne dovrei avere una che mi aveva fatto Giulio senza lo stilo. Boh, devo controllare. Io quello che c'ho in macchina l'ho costruita da un'antenna che c'avevo in casa, che la basetta si era scassata e l'ho costruita, era l'antenna Sirio. Siccome ho comprato l'antenna Sirio, la nuova per la 27, e ci va benissimo in quella basetta lì, ne smonto una e metto l'altra. Ehi, anche io facevo così nella macchina, c'avevo lo stilo corto e lo stilo lungo. Quando andavo a mare, a Marisa, levavo lo stilo lungo, corto, e mettevo lo stilo lungo, arrivavo a bomba qua. E infatti bisogna fare così, a fare così, avanti tu. Ah, io già l'avevo risolto con quello là, il dratto sia per uno che per l'altro. Oh, ma buscava, Gian Maria mi ha dato quello della Sigma, mi ha dato la basetta. No, il mallone ti ha dato la basetta oppure dove la carica? Dove era la carica ce l'avevo io con lo stilo lungo. Lui mi ha dato la basetta. Ah, ecco, dunque hai risolto il problema. E funziona bene quella tua? Niente, l'ho provata con questo cavo, poi c'è una base in un pezzo di lamiera attaccata e zero stazionari pure. È buono, vedi? Buono. Però sei sempre in debito, tu mi devi dare sempre 100 euro per la consulenza, grazie a... Ti ho dato dei consigli e non ho pagato nulla. Ehi, no, con la sovrattassa al 10% ti dovrebbe dare 110. Diglielo tu, grazie, bisogna pagare i lavori che si fanno. Dottore, devi anche contribuire al lavoro che ha fatto Marchizio, E cosa vuoi che ti voce a casa, non si può costruire nulla, no? Bobo! E a chi si no, se più ti passano e più aumenta il tuo contributo. andiamo, Bobo. Io sono come a Banoa, mi to. Non paghi subito. Passa il mese e aumenta, passa l'altro mese e aumenta. Quello sono io. Andiamo, Bobo. Ehi, vabbè. Beh, ragazzini, io chiudo. A domani. Buonanotte, buona cena, buon tutto. Baci. E anche chi è in ascolto, baciucci. Anzi, baciucci, come ti dice di Sicilia. Baciucci. Grazie, buona serata, buon QRT, buona cena, buon tutto, a domani se coincide, e saluto la signora, a domani, ciao, avanti to. Sì, ciao, grazie, stammi bene, sogni d'oro e passanotti, andate, ci sentiamo domani, ok, riprendi i bacchi. Ricambiato tutto, a domani. A papai, andavo. E così a Tom. Allora sabato sei di crociera? Sì, ti devo fare a Olbia, ti devo fare. E vabbè, pazienza. Ma una cosa, ma quell'apparato là sta uscendo bene adesso? Sì, sai cosa è successo? Frugato ed esce. Esce bene adesso. E cosa ci aveva? Beh, aspetta, te lo faccio sentire. Eccomi qua. Quello lì stai adoperando? Sì, io quello lì sto adoperando. Esce bene. Sta uscendo bene. Sì, si era incasinato. Ci accedevano la trasmissione e ricezione di coso. La frequenza era ubriaca. L'ho cambiato il frontalino. C'era il frontalino di quello che mi aveva bruciato. E l'ho messo qua. E ti dirò che adesso funziona alla perfezione. Anda via, anda. E tanto già si va a Nicola. Vabbè, ma quello là da tuo cugino te lo fai mandare? No, vediamo un po' se me lo dà. Li devo chiamare, devo richiamare. Andare. Io te me l'aveva fatto mandare. Se te lo manda, tutto l'altro. Che buono che su. Bisogna chiapparlo in vena, mio cugino, ho preso. Bisogna chiapparlo con la mano larga. È tipo come questo che ho io, mio. Tu cosa c'hai? Quello che adesso sto usando, quello che ti hai fatto vedere l'altra volta, quello grandetto? Sì, quello lì sto usando. Esce una bomba quello lì, pulita pulita proprio. Infatti. E non scalda per niente poi. Ma quello che c'è l'altro giorno stai provando di Gian Maria, qual era? No, oh, era piccolino, tanto un pacchetto di sigaretti. Appena appena più largo. E non è come quello che ho io. No, rimane appena appena più stretto, rimane. E poi c'è i tasti arancioni davanti. No, questi sono tutti bianchi. Ho cambiato il frontalino e ho quello là. Ed era in questo frontalino c'era il tasto della memoria che non funzionava. Perché io dicevo, mi incavolavo, non riuscivo a mettere la memoria. Perché era difettoso il tasto. Invece quello che ho messo adesso, come lo tocchi, c'è già in memoria. E allora vuol dire che si è consumato il tastino bianco, si è consumato della memoria. E non andava. Sempre così, da quando l'ho comprato aveva quel difetto lì. Infatti. Allora, come te lo tocchi, ti ciamba subito. Come lo tocchi, sei già in cosa? Invece prima incacca, 2, 3, 4, 5, 10 volte, alla fine viene qui la terra. Infatti è così, vabbè, vedi, funziona bene? No, adesso funziona bene. Funziona bene, di lusso. Il problema era quello lì, non prendeva memoria. Era smemorato. vabbè. Ma come butta a butta, va. No, è butta a butta. Il casino ha fatto lo stesso difetto. Cosa sto facendo? Il bip volevo mettere. E si mi è incasinato attorno. Ha detto, no. Frugando, non mi dire cosa ho toccato, funziona attorno. Sono miseri di cigosi, succede che... Bisogna stare attenti toccandoli quelli lì, infatti. Io sono già giunto già a che volta ero bongo. Oh, là sono abbassi. Sì. Bisogna pigliare qui la terra, non funziona. Giulia, quello che aveva fatto Gio Maria a provare, cagli un bel cagli, e c'è il ventolino che rimane sempre acceso. Allora è come quello che si è bruciato a me, scaldava grammaticamente, non si voleva pulire la mano, e la ventolina era sempre in azione, e alla fine si è bruciato. Ma è che scalda parecchio, però insomma... Ma il pezzo scalda, ma non è così eccessivo. Normalmente. Questo sì, questo mi è caldo normale. Non è caldo. Oh, quando è caldo di più si accende la ventola, però non è caldo di cose. Ma tu c'hai la ventolina, ma è anche questo che ho io, il coso. Quello 989, come se lo sia. Però c'è la ventolina dietro lo stesso. Ma l'hai messa tu quella lì? Ce l'hai la ventolina perché? No, oh, questa già ce l'ha la ventolina, si scalda molto. Parte in automatico. Infatti. Oh, è abbastanza buono questo, a Vuglia. Ma per quello che dobbiamo fare noi, viene pulvere i buchi. Cos'è Bacchi? Per quello che serve a noi, ce n'è anche per i maiali. Infatti, a Vuglia. Per dire quattro cavolate a 100 metri, va. Infatti. Così a Vuglia si vede che troppo buro. Io ho sentito prima Giulio, non si è più sentito Giulio. Sì, l'aveva portato tutta una base, si è stufato. Oppure si ascolta e non parla. Non ne ha Vuglia. Sì, se vuoi entrare già se menoghi. infatti c'è la porta con la maniglia dorata, se vuole entrare abbassa la maniglia dorata e dentro. Andiamo e andiamo. Non piace a nessuno il canale dei pensionati. Ehi, schietta, pazienza se ci vuole, per se goci. Questo è il canale dei pensionati e nessuno ci vuole arrivare a parlare con i vecchi. Schietta, stavo aspettando quattro pacchettini, adesso ci sono presi in cammino. Certo, tutto l'attimo ci arrivati, chi se invece ci sono perso in cammino? Io non mi hanno durato le dinamiche, mi hanno durato, che non si è visto dai B. E no, che invece che d'altro, dell'altro tre pacchetti ci sono perso in cammino. Arrivini, piano piano. Io ormai non ci spero più. Da molto, perché? Avevo ordinati da metà dicembre, li avevo ordinati, questa cosa. Dovevano arrivare a gennaio, fino al 19 gennaio era programmato, invece non ci sono visti più. È mala sorte, ogni parte c'è la truffa, come ti giri sei già fregato. Ah, secondo me ho spedito dalle poste, sicuramente è sparita la cosa. O le poste o non hanno spedito. Non è che il prodotto a chiamare, sollecitare. Infatti adesso sto cercando di mettere, non arrivato perché c'era il coso di dirmi dopo un mese. Gli metto la scritta non arrivato. Ah, Buffonelli. Vabbè dai Bacchi, ci sentiamo domani. Sì, Tore, è arrivata l'ora anche per me, sulle 8. Ci vediamo domani, Tor. Ciao, salutissimi, buona cena, saluto la signora, domani, bye bye. Ciao anche a Luca, si è facciato così piccolo. A domani. Sì, ok, ci sentiamo Bacchi, a domani. Ciao Luca, stammi bene. Ciao Bacchi, ciao Luca, ciao.